rassegna stampa Europa. Buongiorno e buon sabato da Giulia Crivelli, bentornati alla nostra rassegna stampa europea. Come potete immaginare, i giornali europei, non solo quelli italiani, durante tutta questa settimana, in realtà già a partire da giovedì scorso, non due giorni fa, ma il giovedì della settimana precedente, erano pieni di articoli, commenti, cronaca su tutto quello che è successo a Parigi dopo il gravissimo attentato di mercoledì scorso, di mercoledì 8 e mercoledì 7 gennaio alla redazione di Charlie Hebdo, e anche in questa rassegna vi citerò un paio di articoli. Però vorrei partire dalla Grecia, perché in Grecia si vota tra pochissimi giorni, il 25 gennaio, per quelle elezioni anticipate considerate così importanti, perché il vincitore, il probabile vincitore delle elezioni, di queste elezioni, sarà il partito Siriza di Alexis Tsipras, che ha, lo sapete, criticato duramente le politiche di austerity dell'Europa, e però alcuni pensano anche che nel programma ci sia l'uscita dall'Eurozona. Tsipras ha smentito, ma le voci continuano. E allora la Frankfurt Allgemeine Zeitung, la FAZ, il quotidiano più autorevole di Germania, ha raccolto un'intervista della cancelliera Angela Merkel, che ha cercato a sua volta di smentire tutte le indiscrezioni, dicendo chiaramente: qualsiasi cosa succeda il 25 gennaio, io vorrei che la Grecia rimanesse nell'Eurozona. Merkel ha spiegato che il suo lavoro in questi anni di crisi dell'euro, quindi diciamo a partire dal 2008, puntava e punta a rafforzare l'Eurozona con tutti i suoi membri, compresa la Grecia, e non appunto a espellerne quelli che magari la Grecia, ma prima della Grecia la Spagna o l'Irlanda, non hanno rispettato certi canoni imposti da Bruxelles e soprattutto da Francoforte e Berlino. E la Commissione europea, a proposito di istituzioni europee, e questo è un articolo riportato da Euronews, ha spiegato che, in relazione a quello che dicevamo, tutti i fatti di Parigi, la Commissione stessa, in quanto governo tra virgolette dell'Unione Europea, appoggia tutti quegli Stati membri, appoggerà, che hanno deciso di colpire direttamente con misure immediate il terrorismo o il pericolo di terrorismo. Il caso più recente è proprio quello di ieri, di venerdì, del Belgio, che ha deciso di ritirare i passaporti e le carte d'identità a cittadini europei gravemente sospettati di attività terroristiche. La Commissione ha sottolineato che da una parte appoggia questa scelta, ma dall'altra ha ricordato che la materia di intelligence è una di quelle materie che non è di competenza dell'Unione Europea, come del resto la difesa, altro tema di cui abbiamo parlato molto spesso, ma dei singoli stati. Sempre a proposito di terrorismo e di jihad, non direttamente dell'attentato a Charlie Hebdo, ha parlato Le Figaro, intervistando il direttore dell'Europol, Rob Wainwright, che da Londra ha detto: la nostra stima è che i foreign fighters, cioè quei cittadini con passaporti europei che sono però foreign fighters in Siria, cioè diventano stranieri in Siria perché vengono, o in altri paesi dove lo Stato Islamico addestra i suoi jihadisti, ecco, la stima fatta da Wainwright è che questi foreign fighters sarebbero tra i 3 e i 5.000. Si tratta di cittadini europei, cioè con passaporto europeo, a volte anche non necessariamente di origini, per esempio arabe. Anche in Italia abbiamo avuto il caso di un ragazzo genovese, italianissimo, quindi, che appunto è diventato un foreign fighter in Siria. Quindi si tratta, ha spiegato Wainwright alle Figaro, di cittadini europei che potrebbero obiettivamente rappresentare una minaccia per i paesi occidentali in cui ritornano, addestrati e soprattutto indottrinati dopo aver combattuto in Siria e in Iraq. Un approfondimento molto interessante tra quelli che vi segnalavo fatti in questa settimana l'ho letto su Les Echos. Il titolo dell'articolo era: l'Europa saprà essere all'altezza della mobilitazione. Abbiamo visto tutti, Radio 24 l'ha seguita per ore, la grande manifestazione di Parigi di domenica scorsa, con tutti i capi di Stato, di governo e soprattutto 4 milioni di persone, tra quelle che c'erano a Parigi e quelle che c'erano nel resto della Francia. E Les Echos si chiedeva in un articolo che è stato pubblicato lunedì: quello di ieri è stato un evento senza precedenti e anche, speriamo, un atto fondatore per l'Europa e la Francia. I dirigenti degli Stati dell'Unione Europea hanno sfilato a fianco di François Hollande e del suo predecessore Nicolas Sarkozy, mostrando la loro solidarietà con la Francia dopo questi atti terroristici. Erano presenti anche molti altri capi di Stato, compresi quelli di Israele e della Palestina, e tutti i responsabili delle istituzioni europee. L'Europa, spesso definita solo un grande mercato, ha dimostrato di essere un po' più di questo e che deve essere molto più di questo. Di fronte alle barbarie terroristiche, l'Europa si ricorda da dove viene. È un po' diciamo un wishful thinking, ma speriamo davvero che sia così. A proposito di Europa e di elezioni politiche anticipate in Grecia, vi cito un altro articolo, questa volta di El País, che in realtà è molto collegato a quello che succede in Grecia, perché sapete che Alexis Tsipras e il suo partito Syriza è un alleato a livello europeo, a livello di Parlamento europeo, con Podemos, che è una formazione spagnola, non un vero e proprio partito, nata da quella protesta spontanea degli indignados, le persone che sono scese in strada nel 2013 ma anche nel 2014 per protestare contro le misure di austerity imposte da Bruxelles. E quindi scrive El País: la vittoria di Syriza alle elezioni politiche del 25 gennaio aprirà la strada a un cambiamento simile anche in Spagna. Questo almeno è quanto pensa Alexis Tsipras, che, alleato con Podemos appunto, dà in forte aumento, ricorda che anche che Podemos appunto è in forte aumento nei sondaggi e che quindi le prossime elezioni politiche in Spagna, secondo Tsipras, anche qui potrebbe essere un wishful thinking o forse no, alle prossime elezioni politiche in Spagna il peso di Podemos aumenterà. Passiamo a Le Monde, e però restiamo sul tema delle questioni europee, in particolare di quella austerity che tanti contestano e contro la quale si invoca una maggiore flessibilità. Lo ha fatto l'Italia tramite il Premier Renzi, ma anche altri esponenti italiani nelle istituzioni europee, si invoca una maggiore flessibilità. E allora scrive Le Monde: la maggiore flessibilità sul patto di stabilità, alla quale è disponibile, si è detto disponibile, il Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, viene considerata come un regalo a Renzi, così ha scritto Le Monde. Il titolo dell'articolo era: patto di stabilità, Jean-Claude Juncker pronto a più flessibilità, e scriveva Le Monde: per i paesi che non sono sotto procedura per deficit eccessivo, cioè al di sopra del 3% del debito pubblico, i loro investimenti diretti, a patto che siano in partnership con l'Unione, su progetti di lotta contro la disoccupazione, per infrastrutture di trasporto e per infrastrutture di trasporto, beneficeranno di una lettura accomodante del patto. E questa è appunto quella che viene definita un regalo a Renzi, che riconosce Le Monde, chiede da mesi che gli investimenti nazionali siano tenuti fuori dal patto di stabilità. Che poi, ricordiamo, questo patto di stabilità in realtà si è sempre chiamato patto di stabilità e di crescita, ed è questo che tanti contestano, che poi alla fine si è vista solo la stabilità attraverso l'austerità e non la crescita, ostacolata proprio da quell'austerità, in una sorta di circolo vizioso. Ma vedremo, insomma, il semestre di presidenza europeo sia ufficialmente, il semestre di presidenza europeo italiano sia ufficialmente concluso, la discussione sul patto di stabilità non si è fermata per fortuna, e quindi vedremo cosa succederà. Passiamo a un altro paese piccolo dell'Unione Europea, ma che è importante in prospettiva, la Croazia. Da questa volta l'articolo l'ho letto su Internazionale in edicola da ieri, che parla non in questo caso strettamente di economia ma di politica, perché l'11 gennaio c'è stato un ballottaggio per appunto per scegliere chi guiderà la Croazia nei prossimi anni, e titola Internazionale: la Croazia spaccata in due sceglie la destra. Al ballottaggio dell'11 gennaio Kolinda Grabar-Kitarovic ha sconfitto il capo di Stato uscente Ivo Josipovic, che ha pagato la sua mancanza di iniziativa ma soprattutto gli errori di governo. E questa svolta a destra insomma è un segnale, perché non è la prima in questi momenti di austerity, ricordiamo il caso dell'Ungheria per esempio, e potrebbe non essere l'ultima, secondo l'articolo di Jutarnyi List, che è un quotidiano appunto della Croazia. Torniamo un attimo in Spagna, sempre per Podemos, perché dicevamo le elezioni politiche anticipate in Grecia sono il 25 gennaio, ma entro il 2015 ci saranno anche quelle in Spagna. E allora è il País, di nuovo ve lo ricito, è un articolo diverso da quello in cui si parlava strettamente di Alexis Tsipras, El País prevede appunto che il Podemos, e che è nato da queste manifestazioni degli indignados, a questo punto si sta strutturando meglio da movimento politico spontaneo a vero e proprio partito, e punta, secondo El País, a conquistare il voto delle altre forze di sinistra e dei nazionalisti catalani e baschi. Ricorderete tutti, insomma, il rischio anche di non di scissione, non di, però le spinte indipendentiste che anche in Spagna esistono, e Podemos cerca un po' di intercettare anche questo tipo di protesta, non solo la protesta economica. Un ultimo articolo su questa questione lo pubblica La Vanguardia, altro giornale spagnolo, e si intitola Rompere gli schemi, dove si spiega appunto che Podemos potrebbe essere il vero catalizzatore del voto di protesta spagnolo, come dicevo, non solo di protesta economica ma anche politica. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.